La rosa purpurea di Franco d'Assisi. La società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Vendicare la vita per un tocco di pane è violenza. La fame e la miseria alla quale sono sottoposti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza. La guerra e persino la paura di morire, che abbiamo tutti ogni giorno. A pensarci bene è violenza. Ben ritrovati alla Rosa Purpure, amici. Franco d'Assisi in studio. Siamo partiti in grande oggi, veramente, con la voce di Gianmaria Volonté, la voce e che voce di John Baez, un film e che film, che è Sacco e Vanzetti, e un regista e che regista, in collegamento con noi per le interviste della Rosa Purpurea, Giuliano Montaldo, che saluto. Buongiorno Giuliano. Come va? Bene? Bene, bene, tutto bene, tutto bene. Siamo molto felici di averla qui nostra ospite, perché abbiamo tante cose da chiederle per raccontare questi, vogliamo dire, 40 anni, quasi 50 anni di cinema più o meno, no? No, sono caro amico Franco, sono 60. Ecco, allora sono stato buono. Ho cominciato con Lizzani al suo esordio, Lizzani. In Actum Banditi facevo, ahimè, l'attore, poi ho visto che è meglio cambiare, è meglio mettersi dall'altra parte, la macchina presa, non abbaiare. E insomma, poi è stata una lunga avventura un po' in giro per il mondo con la macchina presa. In realtà ho girato molto in giro, molto molto molto. Beh, tanto, infatti ho visto che i set sono veramente variegati. Io ho voluto cominciare da qui perché è difficile, lo dico con sincerità, trovare un film emblematico di Giuliano Montaldo, perché c'è davvero di tutto, ma penso, forse anche un fatto personale, Sacco e Vanzetti è uno di quelli che mi sono rimasti più addosso, più nella pelle, che mi commuove tutte le volte che lo vedo, insomma, e quindi vorrei cominciare da qui. Forse ha rappresentato anche una svolta nella sua carriera. Beh, certamente, intanto un incontro mi faccia dire ogni volta che sento la sua voce, come mi è capitato adesso. La voce di Gianmaria è una cosa che per me rappresenta non solo un amico, ma uno degli incontri forse più emozionanti nel rapporto tra l'attore e il regista, ma tra la passione per questo lavoro e la dedizione totale, perché Gianmaria era qualche cosa che io continuo qualche volta a chiedermi come poteva vivere il personaggio 24 ore su 24 fino alla fine delle riprese. La parola ultimo ciak forse usciva da quell'abito e entrava di nuovo in quello di Gianmaria. Era pazzesco. Quindi grazie di questo primo pensiero per me, naturalmente per Sacco e Vanzetti, ma per lui. Certo, certo. Tra l'altro un film che non riesce a perdere la sua attualità ogni volta che, del resto lo sarà sempre fino a quando l'aberrazione della pena di morte non sarà sconfitta, no? Io ho visto recentemente, un mese fa, il nuovo film di Robert Redford, Conspirator. Ah, sì. Ed è praticamente ancora una volta quella storia lì, anche se andiamo ancora più indietro nel tempo, ai tempi di Lincoln. Ma accidentaccio. E devo dire che, guarda Franco, io ancora adesso spesso nelle scuole, nelle università mi chiamano per parlare di quel film, o per parlare di Giordano Bruno, altro film con Volonté, o per parlare degli Occhiali d'Oro, dell'Agnese al Molino, ma in realtà ogni volta è un momento di domande che mi fanno gli studenti o che mi fa il pubblico che si allarga. Io dico sempre che poi un film altro non è che uno spiraglio che si apre, non so, una finestra della voglia della conoscenza. In un'ora e tre quarti non si può raccontare molto di più che una vicenda appassionata. Se poi il film è riuscito e si ha voglia di conoscere e sapere di più, beh, insomma, sulla storia dell'immigrazione negli Stati Uniti e dei nostri italiani, io ho scoperto cose nell'inchiesta che ho fatto, incontri, ma delle sofferenze e una vita di una durezza in quegli anni, naturalmente, incredibile, molto assomiglia a quello che le tribolazioni che vivono quelli che devono scappare alla ricerca di lavoro e di libertà nella nostra terra o in Europa. E devo dire che è un film che ogni volta vedo che suscita appunto questo tipo di interesse, di passione. E questo sono stato fortunato, ecco, a trovare questa mia voglia di raccontare la mia sofferenza per l'intolleranza. Frate Giordano Bruno, avete avuto abbastanza tempo per riflettere. Questo tribunale vuol conoscere la vostra risposta alla sua generosa offerta. Hanno detto che i procedimenti usati dalla Chiesa non sono quelli degli apostoli, poiché la Chiesa usa il potere e non l'amore. Quando ho detto questo, non avevo torto. Quando ho detto che la mia filosofia è la libera ricerca e non il dogma, non ho sbagliato. Ho sbagliato quando ho creduto di poter chiedere alla Chiesa di combattere un sistema di superstizione, di ignoranza, di violenza. Beh, io sfido i nostri ascoltatori che non sapessero che anche questo è Gianmaria Volonté, confrontandolo a quello di Sacco e Vanzetti, a dire che è lo stesso attore, è davvero straordinario. Sì, grazie, caro Franco. Grazie. Ma questo ecco, anche la sua capacità di mettersi addirittura nelle radici regionali dei suoi. Qui era, guarda che una cosa che pochi hanno colto, cioè in un film diciamo in costume, tra virgolette in costume, che racconta una storia ambientata in altri secoli, raramente si ha il coraggio di mettere un attore che parla così con quel tono, con quella cadenza delle sue origini. Lui è un nolano, è il magnifico nolano, e quindi Gianmaria, è lui che mi ha proposto questo, sinceramente, un giorno. E ti racconto, Franca, sono andato a trovarlo a Fregene, dove stava lì per prepararsi a questa avventura, e abitudine di fare un po' di prove prima, e mi racconta, mi dice una battuta tipo quella che abbiamo sentito poc'anzi nel suo perfetto dizione italiana. Poi mi fa: senti un po' questo, Giuliano, io credo, mamma mia, improvvisamente questo personaggio viveva, era un altro, era il nolano Bruno Giordano. E questo è una cosa che appunto sono, io credo molto agli attori quando sono intelligenti, quando sono così appassionati, quando sono così preparati. In genere ho un ottimo lavoro, ho lavorato con dei grandissimi attori, da Lancaster a Noiré, ma soprattutto Cassavetes, Peter Fogg, la Rolands, mamma mia. Sono veramente tanti, ma poi penso agli italiani, a Manfredi, a Giannini, e mamma mia, però voglio dire, sono tutti grandi attori. Poi non so che cosa succedeva a quell'uomo di nome Gianmaria e cognome Volonté, cosa succedeva, non lo so, perché qualche volta stupiva. Io ti dico solo una cosa, Franco. C'erano dei momenti che gli attori, quando finiscono il loro ruolo, la loro parte in quella giornata di lavorazione, nell'ora, nella scena hanno finito, normalmente vanno via. Quando recitava Gianmaria stavano tutti lì, nessuno usciva, anche se erano americani, anche se erano francesi, anche se erano tedeschi. Stavano lì a vedere in un angolo come spettatori di un evento che sicuramente accadeva. Gennaro Esposito ha sottratto $200,000. Dai nostri fondi per la campagna elettorale. Colpevole. Colpevole. Sì, colpevole. Colpevole. Era anche per me. Sì. Che ama San Francisco. Charlie? De Marco. Sei stato bravo. Un buon lavoro. Sì, ti spiegherà lui. Te lo passo. Charlie, il fratello ha lasciato la famiglia. Beh, insomma, l'aveva citati Giuliano Montaldo, John Cassavetes, Britt Ekland, Peter Falk, Gabriele Ferzetti, Florinda Bolkan, mettiamoci Regina Rolands, Salvo Randone, un film internazionale, Gli Intoccabili. Come si è trovato a un certo punto, dopo 6-7 anni dal suo esordio, Giuliano Montaldo a lavorare in America? Devo dire che mi ero trovato un po' in Italia, un po' stretto da due eventi. un'accoglienza non certo fortunata per il mio Tiro al piccione e il mio primo film, e poi un altro film che aveva fatto, parlo di Una bella grinta, un bel impatto con la critica, soprattutto il premio a Berlino, ma poi non ha funzionato col pubblico per una distribuzione un po' zoppicante. E quindi forse il film zoppicante. Morale, che era un cul-de-sac, da una parte fatto i soldi ma la critica mi aveva stroncato, dall'altra aveva fatto la critica ma il pubblico non ci è andato, e mi sono trovato veramente col desiderio, dico la verità francamente, di lasciar perdere. Dico, ma allora non riesco a spiegarmi, non riesco a fare questo mestiere. Ed è doloroso, perché c'è un momento in cui ti chiedi ma cosa ci sto a fare se non riesco a comunicare le mie emozioni. Quindi mi sono trovato nella impossibilità di andare avanti. Io volevo raccontare altre cose, appunto l'intolleranza, e quindi mi è capitata l'occasione di fare un test con Ad ogni costo l'intoccabile, provare a girare negli Stati Uniti, che mi avevano proposto misteriosamente, arriva a dire, forse mi ha creduto un produttore, un certo Colombo ha creduto in me subito. E allora ho fatto questa avventura, è andata bene, i film sono andati molto bene, e allora sono tornato un po' più forte, anche un pochettino più deciso. Teniamoci, quando proponevo, sa che Manzetti, la prima volta, il primo produttore con contratto, mi ha detto cos'è una ditta di importo e esporto, tanto per capire. E vabbè, però diciamo che Giuliano Montalto ha contribuito in maniera determinante a rilanciare quella storia e quella vicenda. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, le interviste di questa calda estate 2011. Giuliano Montalto, nostro ospite di questa settimana, e abbiamo parlato tanto della magia, della grandezza di un attore come Gian Maria Volonté. C'è un altro attore, tra i tantissimi grandi attori che hanno lavorato con Giuliano Montalto, la cui grandezza forse si è scoperta un po' strada facendo. Prima era, diciamo, messo in, non dico in un angolo, ma insomma messo in uno schema che era quello della commedia. E però la sua capacità e la sua grandezza di attore universale poi è venuta fuori. Parliamo di Nino Manfredi. Amore, abbiamo passato una vita al buio. A dirci solo la vuoi al burro o la vuoi al sugo. Non potevo lasciarti andare. Ti avrebbero fatto tanto soffrire, sai. Il mio bambino. Ada, Massauro quel giorno non poteva portare i bignè invece che una pistola. Qualcuno deve aver sentito il colpo. E tu credi che c'è ancora qualcuno che ha voglia di stare a sentire un colpo di pistola? Ah, Nino, che meraviglia. Guarda, io è stata una lavorazione che ogni giorno era una festa. Guarda, io credo che sono state stappate più bottiglie di vino e di alla fine di ogni giornata di allegria, perché veramente Nino si era calato in quel personaggio di questo folle che sentiva il braccio più lungo con la pistola, si sentiva realizzato. Era un periodo che erano accaduti dei fatti gravi anche a Roma, cioè uno che addirittura ci fu un caso che un calciatore entrò in un negozio di un amico dicendo ferma tutti, col cappello abbassato, e quello distinto, il gioielliere gli sparò. Questo ci fece molta impressione di che cosa poteva essere questo braccio armato. Tu sei qui, ma la tua mente sta ancora viaggiando. Verso dove? Ti chiedo scusa, grande signore. Quella cosa lì, che cos'è? È uno strumento per indicare le ore. Misura il passare del tempo. Ma è meraviglioso. Allora qui non dipendete più da solo ormai. Ti distrai sempre così facilmente? Fatemi dare un po' di numeri. 1982, l'anno in cui Marco Polo arriva in televisione, 46 paesi, dagli Stati Uniti alla Francia, ovviamente all'Italia, alla Spagna, un cast impressionante nel quale tra l'altro spuntano gente come Anne Bancroft, John Gigold e Leonard Nimoy, quello di Star Trek addirittura. No, ma c'è anche quello che poi come Mozart prese di Frank Moray Abraham. E c'è di diavola. Il Salieri del Mozart, certo. C'è Barnard Castles. Come è arrivata questo sceneggiato che, a mio modo di vedere, forse chiude la stagione dei grandi sceneggiati televisivi, quelli che ancora oggi rimpiangiamo, per intenderci, della Rai, e poi da lì in poi forse gli anni Ottanta non ci avrebbero dato più tante soddisfazioni, fino a trasformarsi nella fiction di oggi? Ma è stata la Rai a offrirmi questa occasione. Mi ricordo che Scarano della Rai, allora lui il direttore della Rete 1, mi disse: cosa pensi di fare un film su... E lì per lì, insomma, io sì, certo sapevo, è dell'altra Repubblica, io sono genovese, Marco Polo è veneziano, fu catturato dai genovesi, e quindi no, devo dire, rimasi un po' sconcertato, cosa vuol dire milione, cosa vuol dire, come si fa a affrontare una cosa così. Poi però ci fu un'adesione incredibile di tanti, i francesi, gli americani, i giapponesi, e all'apertura straordinaria dei cinesi, che era la prima volta che si girava in una coproduzione reale con loro. Prima erano stati fatti due magnifici documentari, quello di Viziani e quello di Antonioni, ma documentari, non fiction. Il problema qual era, francamente? Era che bisognava per ogni episodio cambiare un movimento continuo, ovviamente lungo viaggio un movimento continuo, ma che passa dalla ricostruzione di una Venezia del 1400, quindi voglio dire una Venezia che bisognava ricostruirla naturalmente, con davanti un'isola che era l'isola di San Giorgio prima della lottizzazione del 500, quindi un'isola verde, per poi andare in Gerusalemme, poi andare in Acri e poi andare nel Golfo Persico e poi andare nel Tibet e poi in Mongolia, Gesù. E questo noi abbiamo fatto. Abbiamo fatto significa anche che ogni episodio bisognava cambiare costume, volti naturalmente, coi costumi, e poi anche per i cavalli, cambiare le corazze, cambiare le armature, cambiare addirittura per i cavalli tutto l'equipaggiamento, dalle selle alle redini. Tutto questo per ogni episodio, per arrivare coi mongoli, per esperienza straordinaria. Purtroppo all'epoca non si faceva il documentario, il backstage, sarebbe stato una cosa da perdere la testa, perché noi abbiamo lavorato con dei mongoli che erano incontri ravvicinati di primo tipo, non avevamo mai visto noi loro, in transumanza, migliaia e migliaia di loro, sorpresi, vederci con la luce, con quelle apparecchiature misteriose per loro, una cosa da mille una notte e da emozioni fortissime. Gatto nero porta fortuna. Avrai fame? Eh sì, fa già un bel freddo. Se arrivano le gelate, sono dolori. Da dove vieni, militare? Come hai fatto a scappare da solo? Da Vicenza. Nel mio gruppo eravamo in 12, ma c'erano i tedeschi in giro e allora abbiamo dovuto separarci. A Vicenza c'è una divisione. C'era, ma appena la radio ha dato la notizia che la guerra era finita, nemmeno i topi ci sono rimasti. E allora è proprio finita. C'è l'armistizio. Adesso se la devono vedere i tedeschi. Il sottoscritto se ne torna al suo paesello. L'Agnese va a morire, 1976. Giuliano Montaldo, un dittico potremmo dire, insieme a Gottmik Tunes, sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla Resistenza. Che valore ha avuto raccontare quell'esperienza? Ma intanto credo che sia uno dei pochi film sulla Resistenza dove si parla che un protagonista abbia una donna, e la donna, ho avuto la mia fortuna di incontrare un'attrice che si chiama Ingrid Turing, per dirla solamente come impostazione, mi chiese un mese, non pagata, per un mese di stare in mezzo alle contadine, alle donne della bassa emiliana, della zona dove si erano accadute e dove erano state avvenute quelle azioni, per stare un mese per imparare a muoversi, a gestire, l'intercalare, anche se poi fu doppiata, aveva quei tempi e quelle pause. Una cosa di grandissima professionalità. E quindi poi sono venuti tanti, quando intorno a lei non avevamo tanti soldi, non avevamo pochissimi per fare il film, Ormai sembrava che fin sull'esistenza non si potessero più fare. In qualche modo sembrava proprio aver segnato una data. In realtà Zutti, quando ha saputo della Tulli, quando ha saputo di questo film, da Santa Flore a Bucci, a Michele Placido, a tanti altri, ha compreso Gianni Dorelli che è venuto gratuitamente, vennero per praticamente quasi gratuitamente, vennero solo per la gioia di stare in questo gruppo e abbiamo fatto un film che anche questo ha avuto una storia bellissima. Per il restauro del film è stata fatta una sottoscrizione popolare. Io ho fatto un viaggio che neanche per un grande viaggio elettorale uno fa. Ogni paese avevano dato un po' di soldi e ho dovuto ringraziarli, ma è stato un incontro bellissimo con tanta gente che ama il cinema. Che ne sapete voi della boxe? Arrivo. Il dottore ha ragione. I pugni fanno male. Voi non ne avete mai dati né presi. Eppure il ring costringe gli uomini a conoscersi. In pochi momenti, senza bisogno di parlare. Se davvero ho mai conosciuto qualcuno, è stato sul ring. Ci si fa a pezzi, senza nessuna pietà. E poi ci si abbraccia. Anche in questo splendido Gli occhiali d'oro del 1987 c'è l'omosessualità, c'è la discriminazione razziale contro gli ebrei. So che Giuliano Montaldo non si offenderà se dico che spira una certa aria da Giardino dei Finzi Contini, no? Beh sì. Visto che c'è Bassani anche alle spalle. Non si arrabbia certo Bassani. No, anzi, sono un accostamento che non mi può che lusingare, ovviamente. Quello è un altro atto che io ho voluto fare quel film, perché l'intolleranza anche lì, quella storia è orrenda, cioè, mentre c'è il mondo che sta arrivando, l'orribile nuvola nera che avvolgerà il mondo della guerra del razzismo nei confronti degli ebrei, anche ovviamente gli ebrei del Ferraresi, c'è la cattiveria, la perfidia di spingere verso il suicidio un meraviglioso personaggio che realmente è esistito realmente, eccetera. Ora tu adesso ti confesso una cosa, Franco, io uso il tu perché mi sembro più, posso? Assolutamente, allora, ma è un onore. Franco, io non ho mai visto più un film che ho fatto, mai più, e quindi quando sento quelle voci, quelle cose, è un momento di... E dico, oddio, che momento è del film? Non ricordo quasi più niente. Ricordo certo di averlo fatto. Ricordo l'emozione all'esterno. Perché non lo vedo più? Perché delle volte uno non è riuscito a fare quello che ha potuto, perché è venuto brutto tempo, perché non avevamo sufficientemente denaro, perché lo sforzo non è potuto fare. E allora uno prova una grande, io provo una grande sofferenza a rivedere delle cose che magari ho visto che potevo farlo con un vasto territorio, così, ma poi non so, non c'era, è venuto la pioggia, è venuta la neve, è venuto qualcosa che ci ha impedito la lavorazione. Giuliano, un'ultima cosa, mi verrebbe da dire, meno male che c'è il futuro, perché Giuliano Montaldo, noi tra l'altro lo ringraziamo anche perché l'abbiamo beccato mentre sta lavorando al suo nuovo film. Sì, è finito in queste ore. Guarda, fantastico, io non vedo l'ora di vederlo, ma ti chiedo anche di dire qualcosa ai nostri ascoltatori. Nel cast c'è gente che tira, come Favino, Crescentini, insomma, gente importante. No, guarda, altro incontro, Scianna, Crescentina già aveva già lavorato con me nei Demoni di San Pietroburgo, ma un incontro anche molto importante è stato quello con Favino. Pier Francesco è un altro che ti fa amare questo mestiere e ti fa amare di dire motore, di dire azione, di dire ciacche e di andare in proiezione. E allora aspettiamo L'industriale, perché questo è il titolo del film, vero? Sì. In breve che cosa racconta, proprio in breve? Racconta questo periodo per uno che ha una fabbrica ereditata dal padre e si trova a dover andare in banca e sentirsi dire no, oppure a temere che arrivino dei sfruttatori, delle persone che offrono il denaro, ma che poi alla fine è una tagliola, e quindi ha dovere, in questo doversi chiudere, in questa battaglia di sopravvivenza, alla fine vede rovinarsi anche i rapporti familiari. E allora, aspettiamo veramente con grande, grande curiosità il nuovo film di Giuliano Montaldo, L'Industriale. Giuliano, grazie davvero di essere stato qui con noi. Franco, grazie di cuore. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, Franco D'Assisti in studio, il nostro viaggio nell'attualità cinematografica, nell'ora di cinema settimanale, si addentra in quelli che sono i film che arrivano in sala in questo fine settimana. Non sono molti, ma qualcosa di molto interessante si muove, ma è stata anche la settimana in cui è stata presentata la Mostra del Cinema di Venezia, con i suoi titoli in concorso, con tutto quello che ruoterà attorno al Lido. Allora noi, come sempre, andiamo a riepilogare i contenuti principali della trasmissione nei nostri titoli di testa. Un anno scolastico vissuto pericolosamente. Greg è un ragazzino di prima media che fa lo slalom fra bulli e una mamma troppo apprensiva. Non ama la scuola e la scuola non ama lui. Segnerà tutte le sue disavventure nel diario di una schiappa. Quel giorno che gli uomini scomparvero nel nulla, arriva nei nostri cinema Vanishing on the 7th Street di Brad Anderson, il regista dell'Uomo senza sonno. Quattro sopravvissuti in una Detroit spettrale devono restare attaccati a una fonte di luce per non svanire, assorbiti dalle tenebre. Un film da non perdere, la rivelazione dell'estate 2011. Una line-up da capogiro: Harrison Ford, Abel Ferrara, Claudia Cardinale, Nicholas Winding Refn. Sono solo alcune delle star che affolleranno la Piazza Grande, cuore pulsante del 64esimo Festival di Locarno, al via il prossimo 3 agosto. Ne parliamo con il direttore Olivier Per. La Rosa Purpurea sui set dei film italiani che vedremo nel prossimo autunno. Oggi vi raccontiamo due pellicole ambientate al sud. Mozzarella Stories, commedia noir ambientata nel distretto del cosiddetto Oro Bianco, in Campania, e Il Paese delle Spose Infelici, che ha come sfondo lo splendido territorio salentino. E allora siamo subito a parlare di Venezia, perché appunto si è svolta giovedì la conferenza stampa di presentazione del festival, il decimo dell'era Marco Müller, pare anche l'ultimo, visto che si è già compiuto il raddoppio di quella che dovrebbe essere il normale mandato di un direttore, ma insomma Müller si è trasformato in un super direttore. Noi siamo già in collegamento con Boris Sollazzo, che fra un poco ci parlerà brevemente di uno dei due film nuovi che escono in sala. Però prima, Boris, parliamo un po' di Venezia, poi dando l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla fine di agosto, quando poi avremo una presentazione un po' più ampia del festival. Però è stata una bella edizione, almeno sulla carta quella che è stata presentata. Poi che lo sia, lo vedremo dal 1 all'11, no, cos'è, dal 31 agosto. Lo vedremo dal 31 agosto al 10 settembre. Però sulla carta, tre film italiani, tanta America, tutte prime mondiali, e un bel po' di nomi importanti che tornano al Lido. Ma sono assolutamente d'accordo. Mi azzarderei a dire che l'ultima edizione di Müller, sempre che sia l'ultima, è forse anche la migliore. Mi sembra sulla carta migliore persino di quella della vittoria di Ang Lee, che si portò a casa 30 Oscar. È molto interessante il fatto che rompe la regola degli italiani, non più quattro, regola che aveva instaurato lui stesso negli ultimi 2 o 3 anni, ma tre con Crialese, Comencini e soprattutto Cibi, che insomma è veramente una grande sorpresa. Ricordo di averlo sentito per la prima volta proprio alla Rosa Purpurea, insomma veramente importante come presenza. C'è l'animazione con Vasatrapì oltre che con Cibi, c'è la rivalutazione di quello che è venuto fuori da Orizzonti con Sono, c'è Solons, Sokurov, Cronenberg, tanto atteso Cronenberg. Cronenberg, Friedkin, ma c'è anche Andre Arnold che si fece apprezzare in Fish Tank. Insomma, c'è davvero tanta carne a fuoco. Abel Ferrara, mi sembra un bel programma equilibrato, persino nei fuori concorso, dove sono molto curioso, devo essere sincero, di Al Pacino. E c'è questo nuovo disaster movie di Steven Soderbergh che pure si farà vedere. Non oso pensare cosa farà sul red carpet, madonna. A proposito di red carpet, tra l'altro c'è davvero già appuntamento con star di prima grandezza, perché apre, lo ricordo, George Clooney con The Ides of March, poi ci sarà probabilmente Monica Bellucci nel film di Garrel, se si riprende, visto che ultimamente non sta benissimo, pare che arrivi anche Vasco Rossi per un documentario su di lui, insomma, come dire, le serate del Lido saranno piuttosto intense sotto questo profilo. Qualche deluso secondo te per non essere dentro nel concorso, questo quarto titolo italiano che non c'è, a chi poteva andare? Beh, lo davano tutti a Gianni Amelio e credo che il deluso non possa che essere lui, e a questo punto credo che siano delusi anche forse qualcuno che è andato a controcampo nelle sezioni collaterali, perché effettivamente il posto di Cipi conferma l'ultima tendenza di Mueller di lasciare un titolo italiano al cinema indipendente, quello che non ti aspetti, quello che era andato alla Pecora Nera o a Pappi Corsicato negli anni scorsi. Quindi credo che ci sia più di un deluso in Italia, e questo farebbe pensare, scusami la cattiveria, che è veramente l'ultimo anno di Mueller a Venezia, perché si è tolto forse qualche sassolino dalla scarpa su un argomento che l'ha sempre fatto penare, cioè il cinema italiano, la gestione del cinema italiano. Ricordiamo che Mueller credo sia l'unico direttore di Venezia a non aver visto un Leone d'Oro italiano, che sa che non sia questo l'anno buono. Benissimo, bene, lo vedremo, insomma, a Venezia chiaramente ci saremo, seguiremo. Tra l'altro l'intervista con Gipi sarà in onda in una delle prossime puntate della Rosa Purpurea. Noi proprio oggi, come abbiamo sentito anche nei titoli di testa, cominciamo un viaggio nei set estivi, nei film che si sono appena finiti di montare o addirittura spesso sono ancora in fase di montaggio, e uno dei nostri ospiti, forse con un pizzico di fortuna e anche un po' di preveggenza, è stato proprio Gipi che ci racconterà L'Ultimo Terrestre, il film che porterà in concorso a Venezia. A questo punto però andiamo all'attualità, che fra un poco vedrà quello che secondo me è il film dell'estate, ovvero Vanishing on the 7th Street. Prima però, visto che abbiamo qui Boris Sollazzo, ne approfittiamo, sentiamo insieme il trailer di Diario di una Schiappa. Sei sicuro che non vuoi che ti accompagni dentro? Mamma. Va bene, come per vuoi. Favore. Buona giornata, focaccina mia! La 20th Century Fox presenta Diario di una Schiappa, guida per sopravvivere a scuola. Non fate amicizia con i tipi strani. Volete vedere il mio neo segreto? C'è persino un pelo! Non seguite i consigli di vostro fratello maggiore. Ti faranno fuori comunque entro la fine dell'anno. E soprattutto, non toccate il formaggio! Fermo! Sei pazzo, Greg! Stavi per prendere la formaggite! Madonna, l'ha toccato il formaggio! Tanto per la cronaca, sappiate che per me la scuola media è la cosa più stupida che sia mai stata inventata. Per fortuna ci sono anche persone normali. Wow. O questo sarebbe un posto pieno di matti. Il mio nome è Ombelico. E tu chi sei? Quest'anno? Bel costume! Me l'ha fatto la mamma! Il miglior modo per sopravvivere... Sei una mossa! È una ragazza! Dove la afferro? È essere voi stessi. Sì! Geronimo! Non credo ai miei occhi. E tu, Boris Sollazzo, hai creduto ai tuoi occhi con questa family comedy che arriva dall'America? Tra l'altro ne parleremo più approfonditamente la prossima settimana, perché arriverà il secondo capitolo a una settimana di distanza. E tu, siccome mi vuoi bene, me li fai vedere tutti e due. Beh, ovvio. Insomma, invece di magari farmi vedere Vanishing on 7th Street. Non sono poi così lontani, tranne per il fatto che Diario di una Schiappa è bruttino e Vanishing è un capolavoro, però entrambi insegnano come sopravvivere a un mondo ostile. Nel caso di questo Gian Burrasca americano è la scuola, nell'altro un mondo deserto. È una comedy, una family comedy, come dici tu, appunto, abbastanza fine a se stessa, divertente, probabilmente fa più ridere in America perché c'è quella comicità anche un po' fisica, un po' volgarotta, con questo undicenne molto sfortunato, però insomma non lo definirei un capolavoro e temo che non faccia parte del gusto italiano per il cinema, anche per questo cinema così settoriale, anche se il piccolo attore non è male. Beh, insomma, vedremo, ne parleremo con più spazio a disposizione la prossima settimana. Adesso ringraziamo Boris Sollazzo, che ritroveremo fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea. Ciao Boris. Ciao Franco. La Rosa Purpurea. Break my heart. Alla Rosa Purpurea arrivano, sebbene supportate dai suoni di una canzone totalmente conciliante, le atmosfere invece inquietanti di un film che può essere considerato la vera sorpresa dell'estate 2011. È Vanishing on the Seventh Street di Brad Anderson, con Hayden Christensen, John Leguizamo e Tandy Newton nel cast. Un horror psicologico e metafisico, senza un mostro né un rivolo di sangue. Un film che indaga su una delle nostre paure ancestrali, la paura del buio. Quella mattina Luke si era svegliato presto, come al solito, nel suo lussuoso appartamento ai piani alti di un grattacielo affacciato su Detroit. Aveva fatto colazione e si era diretto verso la TV locale nella quale lavorava come anchorman. C'era però uno strano silenzio tutto intorno quella mattina. Il suo smartphone non aveva campo e gli ascensori non andavano. Luke capì il perché una volta messo piede fuori dal palazzo. Hello? Anyone? Il crack che aveva sentito sotto i piedi era quello di un paio di occhiali che giacevano sul marciapiede accanto a un vestito da uomo steso sul selciato. Mano a mano che Luke alzava lo sguardo, gli si parava davanti una scena apocalittica. Centinaia di abiti umani stesi per terra, in mezzo alla strada, fra le auto ferme e vuote. Come se qualcosa avesse aspirato i corpi di quelle persone, svanite, di colpo, all'angolo della settima strada. Nello stesso momento Paul, il proiezionista di un multiplex, entra in cabina di proiezione dopo aver comprato un pacchetto di popcorn dalla ragazza che ama. Quando un blackout ferma la proiezione, Paul è allarmato dal fatto che nessuno si lamenti. Il cinema si è improvvisamente svuotato dei suoi spettatori. E così l'ospedale, dove Rosemary lavora come fisioterapista. Alla ricerca di un luogo dove trovare un'anima viva, i tre sopravvissuti si ritroveranno in uno scalcinato bar di periferia. Una canzoncina anni 60, quella che sentite, esce dagli altoparlanti e in contrasto al silenzio surreale del locale crea un effetto ancora più inquietante. In quel bar però c'è qualcuno, imbraccia un fucile più grande di lui, è James, un bambino di 12 anni. In quella notte di paura ha perso le tracce della madre, anche lei svanita. Grazie al generatore a gasolio e alle riserve di cibo, i quattro trasformano il bar nell'ultimo avamposto per difendere la vita a Detroit. La luce però non deve mai spegnersi, chi piomba nel buio, che si espande a macchia d'olio, portando con sé il lamento delle persone che sono già state risucchiate, è perduto. Corre voce che nella vicina Chicago ci siano altri gruppi di sopravvissuti. Luke organizza il piano, trovare un veicolo funzionante, sfidando le tenebre che avvolgono la città, e partire verso la città del vento. Ma l'oscurità avanza e costringe il drappello di sopravvissuti ad affrontare il terrore. Il film inizia con una citazione de Gli uomini vuoti, la poesia di Thomas Stern Eliot. Dice il grande scrittore di St. Louis: è questo il modo in cui finisce il mondo, non già con uno schianto, ma con un lamento. Dentro questa citazione c'è tutta la filosofia di Vanishing on the Seventh Street, l'apocalisse che arriva senza rumore, senza squilli di trombe, ma facendoci ripiombare nel buio dal quale siamo venuti. L'immagine stessa di quei vestiti per terra, come se i corpi che li indossavano fossero stati prosciugati da un'entità oscura, richiama il titolo dell'opera di Eliot, Gli uomini vuoti. Brad Anderson è un regista di grande capacità e sensibilità, soprattutto nel raccontare l'inquietudine che diventa ossessione, il confine fra realtà e follia. Lo aveva fatto magistralmente nel 2001 con Session 9, protagonista Peter Mullan, e ancora di più nel 2004, dirigendo uno strepitoso Christian Bale ne L'uomo senza sonno. In questo Vanishing on the Seventh Street, Anderson ha però fatto un miracolo di sintesi fra un budget non particolarmente ricco, le quattro settimane di lavorazione, una storia che senza l'ingegno avrebbe richiesto chissà quali mezzi e comparse. Invece Anderson tiene lo spettatore attaccato dal primo all'ultimo minuto, giocando sul contrasto fra la normalità dei luoghi e la anormalità delle situazioni, fra luci e ombre. Davvero un film da non perdere. Andiamo allora ad ascoltare una delle protagoniste di questo film, l'attrice Tandy Newton, che ci racconta un po' quella che è stata l'esperienza sul set. Il film parla della follia e dell'impossibilità a fare qualsiasi cosa, visto che tutto è ambientato in una situazione terribile. C'è uno studio psicologico su ogni personaggio, anche se ognuno è disegnato in maniera differente, ma in una maniera molto credibile. Tandy Newton, protagonista insieme ad Hayden Christensen e a John Leguizamo di Vanishing on the 7th Street, davvero il film dell'estate per quanto mi riguarda, una grandissima esperienza. Andiamo a giocare, è arrivato il momento di giocare insieme come sempre facciamo qui alla Rosa Purpurea con il Blu-ray Game, con i film da indovinare per provare a vincere splendidi Blu-ray. Cominciamo subito con la prima traccia. Minasan konbanwa. 全世界35カ国で放送されているはずのベストヒットTVお相手は光トリック使ってますマシュミナミです。 Beh, se vogliamo c'è più di una traccia in questo piccolo dialogo che vi abbiamo fatto sentire da questo film di cui dovete indovinare il titolo. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo per partecipare. Come sempre vi raccomando di inserire già dall'inizio il vostro indirizzo di posta per appunto avere poi una certa facilità nello spedire i Blu-ray ai vincitori del sabato e della domenica che li saranno aggiudicati. E che lo sapranno perché verranno avvisati dalla nostra segreteria. Almeno per il mese di agosto cambiamo la policy proprio per una questione logistica. Più tardi avremo però altre due possibilità. Oh, e quindi con questi due film, Diario di una schiappa, di cui abbiamo parlato con Boris Sollazzo, e questo Vanishing on the 7th Street, di cui abbiamo parlato poco fa, si è esaurita praticamente l'ondata, la mini ondata di uscite cinematografiche di questo fine settimana. E invece ci occupiamo di quello che l'estate rappresenta maggiormente sotto il profilo del cinema, ovvero i festival e soprattutto i grandi festival che all'aperto svolgono gran parte della loro durata. Si tratta in questo caso del Festival di Locarno, che contrassegna, marca a fuoco quello che è il mese di agosto. Dal 3 al 13 agosto torna il Festival di Locarno, soprannominato il più piccolo dei grandi festival o il più grande dei piccoli festival, a seconda di come lo vogliate vedere. Sì, perché Locarno ha un'anzianità di servizio notevolissima che lo mette assolutamente al livello dei vari Cannes, Venezia e Berlino, ma ha una sua radice, una sua matrice molto particolare, quella di indirizzarsi soprattutto al nuovo cinema, alle opere prime, seconde, ai registi emergenti, anche se non dimentica nella sua strepitosa Piazza Grande, il più grande cinema all'aperto del mondo, 8.500 persone che ogni sera vedono lo stesso film su uno schermo che come dimensioni è il più grande del pianeta. Pensate che la cabina di proiezione è ottenuta da due vasche per piscine sovrapposte, questo per darvi l'idea. È davvero un miracolo quello che si verifica tutte le sere in Piazza Grande. Locarno, tra l'altro, distante dal nord Italia, da Milano, ma anche da tante altre realtà del nord Italia, veramente a un'ora di macchina, quindi un festival seguibilissimo e molto aperto al pubblico. Beh, dicevo, Piazza Grande, che è poi quello che è il cuore pulsante di questa manifestazione, nella quale arrivano alcuni dei colossal della prossima stagione. Quest'anno, per esempio, si apre proprio il 3 agosto con Super 8, attesissimo film di J.J. Abrams, colossal fantascientifico, e poi ancora si andrà avanti con un film come Cowboys and Aliens con Harrison Ford, che arriverà tra l'altro a Locarno, sul lago, insomma sarà il caso anche per poterlo incontrare. Ci sarà anche Daniel Craig, altro protagonista di questo film, nella cittadina svizzera. Poi c'è il concorso straordinario come sempre, con opere molto stimolanti, tra le quali c'è appunto Sette opere di misericordia di Massimiliano e Gianluca De Serio, che rappresenta l'Italia in concorso. E notizia dell'ultima ora, oltre al premio alla carriera per Isabelle Huppert, ci sarà anche la presenza in giuria di Luca Guadagnino. E quindi insomma c'è anche come sempre molta attenzione al cinema italiano, per questo che è un festival di lingua italiana, poi volendo stare a vedere, perché Locarno è nella componente italiana ticinese della Svizzera. Di tutto questo noi abbiamo parlato, perché c'è anche una retrospettiva straordinaria dei film di Vincent Minnelli, con il direttore del festival, Olivier Per. Allora Olivier, cominciamo da Piazza Grande. Locarno ritrova il suo cuore, il suo vero cuore, e lo trova in maniera molto pulsante, perché quest'anno davvero a guardare i film fa una certa impressione, diventa una sorta di succursale di Hollywood. Quasi, sì, no, è vero, è importante di avere grandi film a grandi spettacolo sulla piazza, perché è un posto che lo merita e anche il pubblico lo merita, e quest'anno siamo fortunati di avere organizzato, lavorato sul ritorno dei grandi film hollywoodiani, dei film di majors. Dunque c'è Super 8 di J.J. Abrams che fa l'apertura del festival, film prodotto da Steven Spielberg. Abbiamo una commedia romantica con Justin Timberlake, Friends with Benefits, e abbiamo il sabato sera, il grande evento dell'estate, il blockbuster Cowboys and Aliens di Jon Favreau. E abbiamo la presenza sulla piazza, sul palco della piazza, di Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde e il regista Jon Favreau. Beh, insomma, un grande panel. Poi la piazza fa diventare belli tutti i film, quindi questa è un'altra cosa. Concorso dove ancora una volta andate a cercare il cinema come nelle radici di Locarno, il cinema dei giovani, il cinema delle opere prime, seconde. E per l'Italia ancora una volta cercate nelle nicchie della produzione qualcosa da lanciare. È vero, per quest'anno il concorso internazionale non è solo il concorso delle opere prime o dei giovani registi, è il concorso del cinema d'autore in generale, del cinema internazionale d'autore in generale, perché abbiamo ritrovato la fiducia di alcuni nomi famosi del cinema come Aoyama o Nicola Klotz o Mia Hansen Love, che sono piuttosto abituati a altri grandi festival e che vengono per la prima volta in concorso. Dunque direi che sono molto fiero di essere capace di accogliere grandi registi importanti e anche opere prime, giovani registi e paesi emergenti del cinema mondiale. Dunque sarà un concorso di 20 lunghimetraggi, eclettico, diverso, originale, però molto forte in generale. Cosa vi ha convinto del film italiano? Il film italiano è Sette opere di misericordia dei Fratelli di Serio. È un film molto bello perché è un film che approfitta del loro lavoro precedente nel circuito dell'arte o del circuito del documentario, però al servizio di una ficzione, di impegnata in un mondo sociale, impegnato della realtà dell'Italia oggi, però con un sguardo, con una visione artistica, poetica molto forte. Dunque è il film italiano in concorso quest'anno a Locarno. L'ultima cosa, ma non ultima, Vincent Minnelli, si ballerà davvero questa volta a Locarno in questa retrospettiva magica con tutto il meglio di questo straordinario autore. Ecco, quali sono i film di cui ti senti più orgoglioso di Minnelli? Perché poi certi non si vedono quasi mai e quindi è anche una grande occasione per vederli sul grande schermo. Io sono un grande amante del cinema di Minnelli, sono un grande fan dei suoi film, e lui è vero che è molto famoso per le commedie musicali come Un americano a Parigi, che sono capolavori, però io ho una grande passione per i melodrami che ha fatto negli anni 50, come Some Came Running, The Four Horsemen of the Apocalypse, non conosco il titolo italiano, però cercheremo. Sì, dunque no, penso che è da riscoprire il cinema melodrammatico di Minnelli, dove ha messo magari la parte più intima più della sua personalità, e penso che è veramente una fortuna dimostrare non solo i film più famosi, però tutto Minnelli a Locarno e la proiezione speciale di Un americano a Parigi sulla Piazza Grande. Grazie. Prego. Olivier Per, direttore del Festival di Locarno, dal 3 al 13 agosto nella bella località del Lago Maggiore, nella Svizzera italiana. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea. Cominciamo un percorso, un tragitto che ci terrà insieme per tutte le puntate di quest'estate, comprese chiaramente tutte quelle agostane, per andare a Zonzo, lo abbiamo fatto, sui set estivi del cinema italiano. I set che si sono appena chiusi, sono film che sono spesso in fase adesso di post-produzione, di montaggio, e abbiamo avuto modo di visitarne alcuni, così riusciamo a farci un quadro di cosa ci aspetta, soprattutto dal cinema italiano più giovane, più innovativo, più particolare, nella prossima stagione, diciamo da settembre in poi. Cominciamo con Mozzarella Stories. Mozzarella Stories, che ha questo titolo anche vagamente evocativo, una bella bufala in locandina. Speriamo che il film non lo sia, come ho detto scherzando al regista di questo film, che è Edoardo De Angelis. È una commedia noir ambientata nel territorio della mozzarella, in Campania, nel territorio del cosiddetto oro bianco, dove anche lì insomma, l'arrivo della manodopera a basso costo, questa volta di etnia cinese, ha porta un po' di scompiglio. E allora si creano queste contraddizioni, questi contrasti fra un modo tradizionale di vedere quella produzione, ma anche quel modo di vivere, e quello che la globalizzazione si porta dietro. Questo è un po' il canovaccio di questa commedia noir, interpretata tra gli altri da Luisa Ranieri, da Ida Turturro, ma nei ruoli di protagonisti, e sono quelli che poi abbiamo intervistato, da Giampaolo Fabrizio e Massimiliano Gallo. Sentiamo. Il gentiluomo pretende da se stesso, il mediocre dagli altri. Giunzu shui xiore duren. Brava. Ma chi l'ha detto che voi cinesi create solo problemi? L'ho detto io, Sofì. Uè, e a te? Diamo bella aria, show, a te. Papà, ma non è ancora finito. No, invece finisce mo e non torno manco più. Ma che vuoi? Uè, te ne vai, sì o no, forza? Vorrei essere pagato, no? A chi? Io non pago nessuno. Zero money, hai capito? Niente denaro. Esorto. Fatteli dare dai compaesani tuoi. Vai, vai! Allora, innanzitutto, gli splendidi protagonisti di Mozzarella Story, quanta mozzarella avete mangiato sul set? Allora, Giampaolo Fabrizi ha fatto una cosa incredibile, è ingrassato con la scusa di dover ingrassare per il personaggio. Lui che non è magrissimo, pensate cosa ha fatto a Caserta. Guarda, quando ho incontrato Edoardo De Angelis, il regista, innanzitutto voglio fare una precisazione, ho detto i protagonisti, no, qui c'è un protagonista e poi c'è un ruolo minore che è quello di Gallo. Ho detto, allora, stabiliamo, perché partire poi con lui significa partire subito con un profilo molto basso. Invece nobilitiamo questa intervista parlando subito, ti allontani per cortesia. Sentendo Giampaolo Fabrizi, cambia canale. Voi non potete vedere, ma lui si avvicina con un fare anche piuttosto equivoco. Comunque, allora, quando ho incontrato Edoardo De Angelis, questo straordinario regista di cui sentirete parlare tanto, oltre Mozzarella Stories, ovviamente, io l'ho spiega amato in bene, non sulle cronaca nere, spiega, sentirete. No, io parlavo della cronaca nera proprio, io quello che ti dico, sì. Allora, lui mi ha detto, Giovanni, ti devo chiedere un grosso sacrificio, devi ingrassare tanto. Io in quel momento ho capito di amare questo regista in una maniera inverosimile. E la mia professionalità mi ha imposto di ingrassare il più breve tempo possibile. Tu sai quante mozzarella mi sono mangiata, non puoi neanche immaginare, ma la mozzarella porta il pane, e il pane cafone a Napoli è buonissimo, il pane cafone porta l'olio e l'olio porta il pomodoro è anche una fettina di prosciutto, insomma ci abbiamo dato dentro. Poi che vuoi, quel litro di vinello, non vuoi mangiare poi un polletto arrosto? Ma certo, mettiamo due patatine fritte, perché no? Arrivano i friarielli che ha fatto mamma, i peperoncini verdi, ancora col sughetto, e poi le spaghette alle vongole, perché dopo che hai mangiato i peperoni, per digerire prendi sempre lo spaghetto alle vongole, senza parlare del branzino, perché a Caserta fanno un branzino straordinario, al sale e non, il tutto innaffiato con un po' di vino bianco. Scusate, vado a mangiare, cioè, io ho bisogno di speriamo che soprattutto gli ascoltatori abbiano una cucina a disposizione. Una storia noir, quasi pulp fiction, ambientata in un sottofondo che è quello che spesso salta alle cronache, appunto per i motivi che sappiamo, la camorra, gli omicidi, l'Iraq, tre cose, però che racconta l'impresa, un'impresa sana, un'impresa positiva, cioè racconta come si sopravvive anche all'assalto della globalizzazione. No, infatti è curioso come... È un film, secondo me, pieno di amore, pieno di energia, pieno di sentimenti, un film vero per questo motivo. E diventa paradossale proprio perché è vero. I nostri personaggi sono caricati a tinte forti, ma proprio perché sono veri. Quindi alla fine nel disegno totale del regista poi ti accorgi di quanto è vera questa storia, di quanto può essere verosimile. E diciamo pure che c'è una delle cose che più ci ha fatto piacere noi attori e soprattutto noi napoletani, questo senso di riscatto che tu leggi nel film e che noi ci abbiamo messo tutto per trasmettere poi a quelli che verranno a vedere il film, agli spettatori, e ce l'abbiamo tenuto sia come attori, perché ovviamente questo ha significato un lavoro sulla recitazione molto molto particolare, ma soprattutto come napoletani, perché è arrivato il momento del riscatto. E Ciccio Dopp, che è un personaggio forte, irascibile, crudo, molto, molto forte, sì, ha il coraggio di ribellarsi alla camorra. È da lì che nasce poi tutto, perché questo, da quest'atto di coraggio poi si innescono tutta una serie di situazioni, anche paradossali, altre volte comiche, ma altre volte anche tragiche, direi. Ma i cinesi come la fanno la mozzarella? Ma i cinesi non la sanno fare la mozzarella. I cinesi all'inghi la possono copiare come si fa la mozzarella. Infatti qui è l'inghippo. Il cinese non potrà mai fare la mozzarella che facciamo noi, perché potranno imparare la tecnica, potranno imparare anche a esportare le bufale, a mungere le bufale, ma la passione che ci mettiamo poi noi nella nostra terra, la terra campana, è molto sana e ci sono allevatori che sono estremamente coscienziosi, preparati e danno un prodotto straordinario come la mozzarella. Quella roba che li fa tu, prosciutto e mozzarella, ma non c'è sto tempo, capi? Ne parla a settembre. Lo sapevo. Ma perché devi tagliare proprio il progetto mio? Io ci ho lavorato tanto. Facci pazienza, piccerino. Io capisco che tu tieni i tuoi interessi, che ti tieni il cervello impegnato, ma mo ci sono altre priorità. Hai capito? Devi tenere un poco di pazienza. La pazienza, papà, ti fa morire solo più lentamente. Oggi ci vuole coraggio. Questo film è coprodotto anche da una company tedesca, no? Allora, come vi immaginate venga recepito questo Mozzarella Story, so, a Berlino? Ma qua ci sono cinesi, napoletani, tedeschi. No, io di Berlino c'ho un bellissimo ricordo, perché ci sono andato con Özvetek, con Mine Vaganti, ma loro sono un pubblico straordinario, anzi, che recepisce forse meglio le cose, vedendole con un occhio chiaramente più distaccato, forse meglio di quanto possiamo farlo noi. Quindi sotto quell'aspetto, anzi, siamo abbastanza tranquilli. Poi sì. Bavaria abbiamo conosciuto, sono più napoletani di noi. Sì. Uno ha sposato una napoletana e sta quasi sempre tra Napoli e Capri, insomma, si è ambientato bene. No, forse è il caso di far cadere i soliti luoghi comuni. Poi noi napoletani sappiamo farci apprezzare e ci apprezzano molto, molto di più di quanto ci apprezziamo noi stessi. E con i tedeschi, ma anche con i cinesi, è venuto fuori un connubio stranissimo, ma che aveva la mozzarella come filo conduttore e il divertimento e la passione poi come reale collante fra queste culture. Voglio morire! Uè, ma che è stato? Ma che problema è? Parla un po', ma che è stato? Angelo, papà. Angelo, che ha fatto Angelo? Oggi c'è gente che non richiude. Oh, non si dice. Quello se n'è andato, manco mi ha risposto. Sofì, sai chi è un esperto di queste cose filosofiche? Un ragioniere. Parlo qui, te lo chiamo. Quando ci siamo sposati lui mi adorava, invece papà mo non mi pensa proprio, cioè è un morto. Lo so, Sofì, ma... Sofì, tu devi essere devota. Devoto? Ma che vuol dire devoto? Stiamo 1800, papà! No. Devoto! Chi sta tutto scemo? A essere devoto! E questi erano Massimiliano Gallo e Giampaolo Fabrizio, protagonisti di Mozzarella Stories nella prossima stagione nei cinema italiani. Fra poco parleremo di un altro set, prima però giochiamo ancora insieme la seconda traccia del film misterioso di oggi. Oh, santo cielo, John, che diavolo fai qui? Sai, io sto qui fotografando una band, ma dimmi di te, come per vai la promozione qui? Del mio film d'azione, io! Yeah! Oh. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi ci sarà l'ultima tranche del nostro gioco. Bene, un altro film del prossimo autunno italiano. Dalla Campania di Mozzarella Stories alla Puglia, al Salento di Il Paese delle Spose Infelici di Pippo Mezzapesa. Pippo Mezzapesa è un regista molto interessante che si è formato con clip documentari e che con un documentario straordinario sul custode di un piccolo cimitero di provincia nel Barese, un paio d'anni fa a Venezia, la settimana della critica, fece davvero un botto, un grandissimo successo. Adesso arriva il primo lungometraggio di finzione, appunto questo Il Paese delle Spose Infelici. Pippo Mezzapesa ci racconta un po' come è nata quest'opera. Diciamo che l'esperienza con i corti è stata assolutamente formativa per questo inizio, perché così si può chiamare, sia con i corti che con i documentari, perché diciamo che i corti di finzione mi hanno insegnato la grammatica cinematografica, mentre i documentari hanno più che altro formato lo sguardo nel riuscire a raccontare dei luoghi, delle facce, dei personaggi. Questa nuova storia, che tratta da un romanzo, Il Paese delle Spose Infelici di Mario Desiati, e l'ho scelta perché l'ho letto, che era ancora una bozza il romanzo, avendo una forte amicizia anche con l'autore, con cui condividiamo certo modo di vedere le storie, di narrare le storie, anche determinati paesaggi. Anche lui è pugliese come me, questa è una storia completamente ambientata in Puglia. E mi hanno molto interessato i personaggi di questa storia e l'interazione che si crea tra questi personaggi, che sono due adolescenti, Zazà e Veleno, e una ragazza più grande di loro, Annalisa. Come la racconteresti, così in poche parole, la tua storia e la storia di questo film? È la storia di un ragazzo, di un adolescente di 15 anni, Veleno, di buona famiglia, di estrazione borghese, che sogna di sporcarsi di fango, di terra, di vita, ed entra in questo gruppo di ragazzi di strada e diventa intimo amico del capo, Zazà, che invece ha una condizione familiare molto, molto critica. E nasce una fortissima amicizia tra questi due personaggi opposti, che viene infranta, che viene messa in discussione dall'avvento di questa Annalisa, che è una ragazza più grande di loro, ma che è come se attraversasse una nuova adolescenza, perché è in un momento di scelte che diventa la loro Madonna randagia, perché porta in loro il turbamento e la sensualità del dolore. Perché le spose sono infelici in quel paese? Ma in realtà è più che altro una cosa legata al romanzo, tant'è che il titolo del film è provvisorio. E diciamo che non sono infelici solo le spose, c'è una racconto un momento in questo paese della vita di questi personaggi, in cui sono combattuti tra quello che sono e quello che potrebbero essere, quello che sono costretti ad essere e quello che potrebbero diventare, e quindi questo provoca turbamento. Pippo Mezzapesa, regista de Il paese delle spose infelici, dalla prossima stagione, dal prossimo autunno, nei cinema italiani. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, La rosa purpurea, il gran finale, come sempre dedicato al cinema da vedere in casa, all'home video, ma anche alla TV che spesso può essere ed è amica del grande cinema, soprattutto nei recuperi, nelle visioni di film persi, dispersi, mai visti o poco visti, o magari anche tanto visti, ma che è sempre bello rivedere. Lo facciamo come sempre con gli amici della settimanale Film TV, ed è in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco. Allora, ci siamo voluti tuffare in un'atmosfera francese inizialmente per questa puntata con le segnalazioni di Film TV, perché c'è un Truffaut dei più recenti, insomma, rispetto alla sua carriera e alla sua purtroppo breve vita. Siamo nel 1983, quando François Truffaut firmava finalmente Domenica. Sì, esattamente, venerdì su Rai Movie alle 10:30 del mattino, uno di quei film che è sempre bello rivedere, ed è il 21esimo e ultimo film di Truffaut, un meraviglioso omaggio al cinema noir hollywoodiano degli anni 40, che Truffaut mappa con filologico e divertito rigore nei temi e negli stilemi, dalla struttura dell'immagine a quella propriamente narrativa, virando tutto in una commedia raffinata che è trascinata da una memorabile Fanny Ardant di un fascino meraviglioso. E allora, questo è l'appuntamento con Vivement Dimanche, finalmente domenica, venerdì Rai Movie ore 10:30, l'ultimo film del grande François Truffaut. E cambiamo addirittura continente, con un salto a Hollywood, Vermont, dove invece si afferma una delle avventure più divertenti e serrate di un altro grande commediografo, ma anche un interessantissimo regista come David Mamet. Sì, assolutamente. Sabato alle 17:05 su Iris, Hollywood, Vermont, il genio di David Mamet, che è appunto uno dei più importanti drammaturghi statunitensi, costantemente però prestato al cinema sia come regista che soprattutto come sceneggiatore, lascia i consueti meccanismi a scatole cinesi del suo cinema da regista per un divertente ma anche sottilmente amaro e personale effetto notte, cinema che parla di cinema con dialoghi al solito scintillanti e un cast d'origine teatrale altamente controllato. E questo è allora il film di David Mamet, Hollywood, Vermont. Grazie a Giulio San Giorgio, appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Grazie a te Franco, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori. E allora, dopo i film in televisione, quelli non video, ma anche quelli da vincere, soprattutto quelli da vincere, con il nostro game, sentiamo la terza traccia del film misterioso di oggi. Roger Moore. Sì. Okay. Io penso solo a Sean Connery, no, sul serio? No. Non conoscete l'espressione no. A Sean Connery qui? Roger Moore. Ok. E allora, in quale lingua si esprime l'altro? non certo quello che parla più come noi. E da questo chiaramente che si capisce un po' di che film si tratta. La Rosa Purpura a @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere il Blu-ray di questo straordinario film. Andiamo indietro di 7 giorni, andiamo a sentire una delle tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. Dalle mie parti, uccidiamo un uomo prima di colazione, giusto per stuzzicarci l'appetito. Poi lo saliamo, poi lo pepiamo, poi lo rosoliamo in burro chiarificato e poi ce lo mangiamo. Si trattava di Rango, era questo il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, a mio modo di vedere il più bel film d'animazione, più divertente, più cinematografico che si sia visto, sicuramente quest'anno è uno dei migliori, Pixar compresa, degli ultimi anni. Rango che arriverà alle case di due nostri ascoltatori lombardi, Paolo Bianco di Monza e Michele Coletti di Milano, entrambi sono stati il più veloce e rapido a indovinare ovviamente il sabato e la domenica e riceveranno a casa il Blu-ray di Rango che ci facciamo raccontare dal nostro recensore Claudio Pofi. Da Paramount l'edizione DVD, ma attenzione, qui vale davvero la pena optare potendo per il Blu-ray alta definizione che restituisce tutta la qualità originale dell'opera, un disco assolutamente da riferimento, almeno per il video, l'audio è offerto come al solito col Dolby Digital multicanale identico al DVD, superiore all'originale inglese DTS ad alta risoluzione. Il Blu-ray offre la versione cinematografica originale, ma si può scegliere anche l'estesa con circa 5 minuti in più di elementi maggiormente grafici. Sono molto interessanti gli extra, tra cui ne segnaliamo due veramente esclusivi, perché è possibile visionare attraverso una visione estesa il film seguendo il commento in compagnia di regista, co-sceneggiatore, produttore e altri membri della troupe, oppure si può optare per la visione con comparazione degli storyboard originali in modalità picture in picture, scegliendo la versione cinematografica. È davvero una grande esperienza questo Rango. Ricordo di Gore Verbinski, stiamo parlando del regista che ha portato sul grande schermo la saga dei Pirati dei Caraibi, quindi insomma di uno che talento visivo ne ha dimostrato e anche alle prese con l'animazione, come in questo caso ne viene fuori un western che cita i classici con personaggi di grandissima simpatia, un film davvero per tutti, non solo per i ragazzi, questo Rango. Andiamo avanti perché tornerà entro la fine di agosto nelle sale un altro supereroe, Conan il Barbaro, lo ricorderete, però questo remake non deve far dimenticare, o insomma questo rinfrescamento della storia di Conan non deve far dimenticare il film originale che ci spinge indietro di 30 anni, sentiamo. Ma nel loro furore gli dei si dimenticarono del segreto dell'acciaio e lo lasciarono sul campo di battaglia, e noi che lo trovammo non siamo che uomini. Né dei, né giganti, solo uomini. E il segreto dell'acciaio ha sempre portato con sé un mistero. Devi impararne il valore, Conan, devi impararne la disciplina. In un'epoca fantasy seguiamo le avventure del cimmero Conan, che perde giovanissimo i genitori, massacrati assieme al resto del villaggio da spietati predoni. Cresciuto nel dolore, schiavo sino all'età adulta, i lavori forzati ne temprano il fisico e invitano alla forza bruta, sino al giorno in cui, libero, potrà mettersi in cammino in cerca di vendetta. Il cult di John Milius dell'82, tra le prime produzioni americane di De Laurentiis, giunge in Blu-ray alta definizione grazie a Fox Home Entertainment, con notevolissimo risultato per le immagini, sicuramente superiore alla versione DVD. Anche l'audio, beneficio di codifica DTS e offerto ovviamente l'inglese DTS alta risoluzione. Tra gli extra segnalo il commento del regista John Milius assieme ad Arnold Schwarzenegger, purtroppo non sottotitolato. Ci sono 6 sezioni di approfondimento sulle lavorazioni con immagini inedite dal set, ma è presente anche un making of di 53 minuti. È davvero un'occasione per rivedere uno Schwarzi giovanissimo, siamo appunto nell'82, quindi sono passati davvero quasi 30 anni per questo film, e poi magari fare un paragone con quello che sta per arrivare appunto nelle sale, di cui parleremo qui alla Rosa Purpurea a tempo debito. Ancora una volta un salto, un volo pindarico quasi, un salto di qualità notevole, perché parliamo di un grande classico come The Hustler, in Italia conosciuto come Lo Spaccone. Dalle nostre parti dicono che Minnesota è il più forte d'America. Veramente? È vero, sì. Dicono che il vecchio Fez le caccia in buca le biglie a occhiate. Tu di dove vieni? Dalla California, Oakland. Dalla California? E ti chiami Felson? Eddie Felson? Sicuro? Mi hanno detto che mi stavi cercando. Sì, è vero anche questo. Big John? Pensi che questo ragazzo voglia spennarci? Orgoglioso e violento, Eddie è un campione di biliardo che giunge dalla California per sfidare l'asso della stecca, Minnesota Fats. Dopo aver raccolto una grossa somma di denaro per affrontarlo, raggiunge col suo manager Chicago, dando il via a una snervante sfida contro Fats. Ma mentre si susseguono vittorie e sconfitte una partita dopo l'altra, Eddie si renderà conto troppo tardi di aver perso l'incontro più difficile, quello con l'amore della sua vita. Cult memorabile con Paul Newman e Jackie Gleason, poi ripreso dal maestro Martin Scorsese in un altrettanto memorabile remake da Fox Home Entertainment, il Blu-ray in bianco e nero di notevolissima qualità. C'è l'audio italiano DTS di buona resa, superiore a quello inglese ad alta risoluzione. Per gli extra segnaliamo il commento, tra gli altri, di Paul Newman, del regista Ulu Grosberg e dello storico del cinema Richard Schickel. C'è un approfondimento su Walter Travis, che scrisse il romanzo, due focus su Paul Newman, uno su Jackie Gleason e addirittura l'analisi dei tiri speciali e come eseguire un tiro a biliardo in compagnia di un campione americano. Ricordiamo che il film a cui Claudio faceva riferimento, firmato Scorsese, Il colore dei soldi, che è una sorta di sequel, diciamo, di questo spaccone. E allora, grazie Claudio per averci raccontato un po' le novità in un video anche in questa fine di luglio. Noi ci risentiamo la prossima settimana, perché anche le segnalazioni in un video non andranno mai in ferie per quanto riguarda la Rosa Purpurea. Ciao Claudio. Un saluto, a presto. E allora è arrivato il momento di chiudere la trasmissione, l'appuntamento va alla prossima settimana, il primo weekend di agosto, che coincide certo con la bassa stagione cinematografica. Comunque arriveranno tre novità sul grande schermo, e poi ci sarà la possibilità di proseguire il nostro viaggio sui set estivi, sui film che vedremo il prossimo autunno sugli schermi italiani, per andare a conoscere un po' quello che è appunto il palinsesto delle novità tricolori per quanto riguarda il grande schermo. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Franco D'Assisti.